la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Se chiedi a Margherita Hack quando è stata la prima volta che ha scelto di diventare astrofisica, ti risponderà così. Mai, quando ho cominciato a fare la tesi, mi è capitato di scegliere, ho dovuto scegliere una tesi in astrofisica, perché quella che volevo fare era elettronica e il professore dell'elettronica me la dava volentieri e il direttore invece mi ha detto un altro argomento, nell'elettrostatica, vecchio, superato, e l'altra possibilità di fare una tesi sperimentale era l'astronomia. Ecco, perciò ho cominciato a fare astrofisica, proprio per caso, non è stata una vocazione. A me piaceva la fisica. E dopo ha scoperto però una passione una volta che ha incominciato? Ho visto, era un bel lavoro, interessante fare ricerca. Avrei potuto fare ugualmente ricerca in fisica delle particelle, è capitato in astrofisica. È stato un bel lavoro fare ricerca. La fatica perché si rende conto, o fino ad ora il ministro del governo non si è reso conto dell'importanza che ha la ricerca per il progresso di un paese. Spero che questo nuovo governo fatto di professori si renda conto che la ricerca è fondamentale per il progresso di un paese e quindi bisogna trovare modo di mantenere i nostri giovani neodottori di ricerca in Italia, non di lasciarli fuggire all'estero, perché sennò l'Italia diventa un paese in via di sottosviluppo. La prima volta per Margherita Hack come astrofisica è stata dunque per caso. Era forse lo stesso caso che da piccola l'aveva fatta vivere a Firenze in via delle 100 stelle. Eppure, la passione per lo studio arriverà molto tardi. Sarà invece lo sport a caratterizzare l'infanzia e la giovinezza di Margherita. Federico Taddia, autore e scrittore, è uno dei più intimi amici della Hack e ci racconta questo. La sua passione da giovane era lo sport, era quella la sua benzina quotidiana. Lei appena poteva andava, correva, faceva salti in alto, faceva salti in lungo, il basket, il volley, insomma è proprio è quello lì l'animo e lo spirito che caratterizza la sua adolescenza. E anche se le chiedi ma tu che ragazzina eri, che adolescente eri, lei ti dice quello, una non appassionata più di tanto allo studio. Fu rimandato in matematica alle scuole superiori un anno, ma perché litigava spesso con l'insegnante di matematica e un lunedì, mi racconta sempre questo divertente aneddoto, che un lunedì, siccome lei sapeva che questo insegnante un po' ce l'aveva con lei e quindi lo stuzzicava anche, no? Faceva finta di leggere il giornale di nascosto, in verità il giornale era dentro alla cartella, ed era un lunedì e il giornale in questione era la Gazzetta dello Sport, perché lei era tifosissima della Fiorentina e il lunedì quindi leggeva sempre la Gazzetta. In verità fingeva di leggerla quel giorno perché sotto al banco non aveva nulla, arrivò l'insegnante, signorina che cosa sta facendo? Sta leggendo il giornale, e lei, ma no, perché il giornale è nella cartella, no, non è vero, prese una nota e da lì fu tutta un'escalation che la portarono poi a rimandata in matematica, che è abbastanza buffo. Però sì, l'incontro con le stelle è stato casuale, anche se lei nei suoi ricordi da bambino spesso parla dei genitori, che sono i suoi veri maestri, due personaggi molto particolari, due caratteri molto forti, con scelte anche di vita dirette, insomma una famiglia anche che una famiglia presente, anche se le hanno lasciato sempre la libertà di fare quello che lei voleva. La vita di Margherita è serena, le stelle le guarda come ogni bambina dell'epoca, e di stelle allora, quando Margherita Hack aveva poco più di 6 anni, il cielo era pieno, come racconterà lei stessa. Quando ero bambina, d'estate, mi sembrava di camminare in mezzo alla Via Lattea. Oggi le lucciole sono una rarità. Ne vedi forse qualcuna in un bosco. Le rondini sono enormemente diminuite. Le farfalle nel giardino mio quest'estate non ho visto una farfalla, non una. E questa è proprio la prova evidente della distruzione, proprio per la mancanza di rispetto che abbiamo verso tutti gli animali. Il padre avrà un ruolo centrale nella vita di Margherita Hack. I ricordi legati a Firenze, la curiosità, lo sguardo rivolto al cielo lo passerà alla piccola Margherita, il padre. Cose che, per reticenza, la Hack non racconta ai giornalisti, ma che rivela agli amici più cari. Federico Taddia è uno di questi. L'incontro con le stelle è stato casuale, anche se lei nei suoi ricordi da bambino spesso parla dei genitori, che sono i suoi veri maestri, due personaggi molto particolari, due caratteri molto forti, con scelte anche di vita dirette, insomma una famiglia anche che... una famiglia presente, anche se le hanno lasciato sempre la libertà di fare quello che lei voleva. E c'era questo papà, mamma artista, quindi mamma che insomma le ha trasmesso un po' il gusto del bello. Lei ricorda la bambina quando correva tra i quadri anche dei palazzi storici fiorentini. E questo padre invece che gli ha trasmesso il piacere della scoperta, della curiosità, quindi lei proprio ricorda a volte queste passeggiate di giorno in campagna con il padre che gli spiegava le sfumature della natura, i nomi degli insetti e anche qualche passeggiata notturna, quindi seduta su un prato con il padre che è il primo a dire a lei il nome delle stelle, a farle vedere le costellazioni, a spiegarle un po' i misteri del cosmo. E lei dice che questa cosa probabilmente sì, non è stata la scelta determinante per i suoi studi, però quando casualmente ha incontrato l'astrofisica, tutto questo piacere che il padre le aveva comunicato è esploso. La prima volta. Tutti parlate di cinema, tutti! Ma noi ne possiamo parlare perché mi sembra che... No! Parlo mai di astrofisica io, parlo mai di biologia io. Ti stai creando dei problemi che non esistono. Tu stai zitto, già do un quadrato a te. In che senso? Nel senso che ho capito i tuoi interessi. Quali interessi? Tu è meglio che stai zitto, lascia parlare. No, parlo mai di neuropsichiatria, parlo mai di botanica, parlo mai di algebra. Michele, tu stai facendo un film bellissimo. Io non parlo di cose che non conosco, parlo mai di epigrafia greca, parlo mai di elettronica, parlo mai delle dighe, dei ponti, delle autostrade. Io non parlo di cardiologia, io non parlo di radiologia, non parlo delle cose che non conosco. Se Moretti in Sogni d'oro non si permette di parlare di astrofisica, Margherita Hack invece l'astrofisica la porta ovunque, soprattutto tra i giovani, e succede un miracolo che colpisce tutti. I giovani la seguono e la ascoltano, perché la Hack sa ascoltarli e rispettarli. Ci racconta così Federico Taddia, uno dei più grandi amici di Margherita Hack. Rispetta la loro voglia di sapere dando risposte che hanno sempre un 100% di rigore scientifico, risponde ad ogni domanda e considera dignitosa qualsiasi domanda. Anch'io le ho visto rispondere alle domande più assurde poste anche da dei bambini, no? Però ogni domanda è una cosa seria, ogni domanda è un qualcosa a cui dare risposta. E poi dopo c'è lei che queste risposte te le sa dare, ti sa far vedere l'astrofisica, che è una cosa complicatissima di fatto, però non banalizzandola ma semplificandola. Per lei semplificare vuol dire fare esempi, vuol dire fare metafore, vuol dire magari che lo stesso concetto, una volta che te l'ho spiegato, te lo rispiego anche, non ho problemi. È molto generosa, e questa generosità divulgativa viene respirata dai giovani sicuramente, che vedono questa nonna, questa signora che comunque ha 90 anni, comunque è affaticata, che però è ancora lì che cerca di divulgare quello in cui crede. Come fra gli esseri umani, ci sono la maggioranza, sono persone normali, poi ci sono quelli che sono anormali, che sono matti, che sono delinquenti, che sono dei geni. Le stelle peculiari sono quelle che esulano dalla norma. La maggioranza delle stelle, compresi il nostro Sole, sono stelle comunissime, normali, però ce n'è qualcuna che presenta delle caratteristiche nella loro emissione di luce che presenta delle stranezze. È il problema di capire la ragione fisica di queste stranezze. I giovani la amano dunque, perché quando si racconta lo fa senza enfasi e retorica ed è capace di farsi capire, ma è anche capace di ricordare momenti in cui la sua vita ha avuto degli inciampi e poi, nonostante tutto, è ripartita anche meglio di prima, come quando, alla fine del liceo, decise di iscriversi a lettere per restarci un'ora soltanto. Lo racconta così in un incontro con i ragazzi di una scuola di Mogliano Veneto. Un'ora sola, perché magari scritta a lettere, perché non conoscevo altro. Facevo temi in 448 e poi scrivevo il lunedì, leggevo le cronache della partita della Fiorentina e poi riscrivevo a modo mio la cronaca e i miei pensavano che forse avrei fatto la giornalista sportiva. Ho assistito a una lezione di un famoso professore e che per un'ora parlò di un libro di Cecchi, I vari pesci rossi, e che per me fu una gran barba, dicevo, che c'è da fare, perché me ne chiedevo. E allora pensai di scrivermi a fisica. La vita di Margherita Hack ha inizio nel 1922. Nella casa di Firenze, in via Centostelle, Margherita cresce in una famiglia anticonformista, vegetariana dalla nascita. Perché io sono vegetariana dalla nascita, perché i miei erano già vegetariani quando sono nata e malgrado non abbia mai mangiato carne, io sono stata un'atleta piuttosto buona, ho vinto 2 campionati universitari, sono stata terza a 2 campionati assoluti, quindi sono cresciuta bene anche senza carne. E amo gli animali. E questo stile di vita, probabilmente, questo avere genitori così appassionati alla vita e all'arte, a fare di Margherita Hack una ragazza forte, razionale, aperta al mondo, generosa ed impegnata. La prima volta di Margherita Hack non è dunque il giorno in cui si laurea come astrofisica. La sua prima volta è il giorno in cui comincia ad impegnarsi nella divulgazione scientifica. È il momento in cui la Hack comincia a parlare ai giovani e alla gente. Nel 1964, quando vinse la cattedra di astronomia presso l'Università di Trieste e divenne direttore del locale osservatorio astronomico, nel giro di pochi anni il planetario divenne uno dei più importanti a livello nazionale. A Trieste la Hack oggi è una celebrità, anche per risvolti che a noi sono sconosciuti, come quello che ci racconta Federico Taddia. E ci sono aspetti che a me fanno sempre molto sorridere, per esempio una cosa che mi colpisce sempre è che lei adora tantissimo guidare l'auto, tuttora, appena può prende la sua auto, guida lei e si arrabbia tantissimo, una di quelle automobiliste che proprio se sei in macchina con lei dice dai Margherita adesso. Stai tranquilla, c'è sempre il litigio dietro l'angolo, no? È insofferente alla guida altrui, quella cosa è molto buffa. Poi pensa soprattutto in una città come Trieste, lei abita anche in una via molto stretta, c'ha questa Panda che ha appena acquistato dopo che ha avuto una Fiat tipo per 15 anni che non voleva vendere perché diceva e cosa la cambia a fare? Intanto poi fra poco muoio, e invece ha ceduto alla tentazione della nuova Panda azzurra ed è veramente, quello è veramente uno spettacolo, cioè, quando sei in macchina con lei è veramente uno spettacolo perché si sente padrona del mezzo, ma giustamente poi guida benissimo, però anche lì è insomma la strada è un po' più piccola dell'universo, no? Nell'universo probabilmente è abituata a fare un po' quel che gli pare, lì ci sono delle regole, ci sono anche altre automobili e quella cosa lì si dimentica ed è veramente divertente. You must have fallen from the sky. Dal 64 ad oggi, Margherita Hack ha lavorato instancabilmente per diffondere la conoscenza scientifica, con la stessa leggerezza con cui nel lontano 64 cominciò a parlare ai suoi ragazzi. Ancora oggi gira l'Italia per raggiungere le curiosità dei giovani. La sua prima volta non ha dunque mai fine, come dirà lei stessa. Il mondo descritto da Hack è pieno di meravigliose spiegazioni, come quando racconta che basta guardare il cielo per avere davanti a sé una perfetta macchina del tempo. Ci sa una macchina del tempo noi, astronomi, per guardare indietro nel passato, è la velocità della luce, perché quando noi guardiamo una galassia a 10 miliardi d'anni luce, la vediamo come era 10 miliardi d'anni fa, perché la luce impiega 10 miliardi ad arrivare fino a noi. Quindi quando io guardo un oggetto, più lontano lo guardo, più indietro nel tempo lo vedo. E quindi in questo modo noi possiamo ricostruire, vedere l'immagine dell'universo come era quasi 14 miliardi d'anni fa, quando ancora non c'era né le stelle né le galassie. Quando guardiamo una galassia a 13 miliardi d'anni luce, la vediamo come era 13 miliardi d'anni fa. Quando guardiamo la galassia d'Andromeda, che è visibile anche a occhio nudo, se è bello buio, non a Bologna, vediamo come era 2 milioni di anni fa. Quando guardiamo il Sole, lo vediamo come era 8 minuti di anni di 8 minuti fa. A suo agio tra i giovani, Marguerite Hack si trova sempre un po' resistente a parlare di sé e delle sue emozioni. Eppure è una persona molto sensibile e ironica, racconta Federico Taddia. Distinguere persone e personaggio con Marguerite non è facile, perché soprattutto adesso, che insomma ha quasi 90 anni, e sa che gli è permesso tutto, quindi non ha veramente filtri, non ha veramente peli, non ha veramente titubanze, quello che pensa, dice, diretta. E è sicuramente una persona che ostenta poche emozioni solitamente, sia quando parla del suo campo, dell'astrofisica, sia quando parla anche insomma della vita in generale. Non è sicuramente una persona che lascia spazio alle emozioni, che in verità prova, in verità ha, e in verità credo che il suo modo per esprimere l'emotività è l'ironia. È una che fa veramente tantissime battute, è una che veramente ride tantissimo anche di sé, quindi ironia e autironia. Questa cosa a volte non traspare, vuoi per la serietà delle domande che le vengono poste, vuoi per magari per i contesti, perché tantissime volte è in giro per conferenze, per premi, quindi per situazioni dove forse bisogna mantenere un certo ruolo, in verità è una che scherzerebbe e riderebbe di continuo. La prima volta di Marguerite Hack avviene dunque quando sono i ragazzi a scoprirla nella sua intensità. Ci saranno poi le battaglie civili, condotte prima al fianco dei radicali, quando sarà la volta di sostenere l'eutanasia, poi con altri ricercatori e pensatori, quando sarà il momento di appoggiare la libertà di ricerca. Marguerite Hack risulta sempre forte, indipendente e libera. È un bel lavoro fare ricerca. Anche oggi, nonostante tutto, dice? La fatica, perché si rende conto, o fino ad ora il governo non si è reso conto dell'importanza che ha la ricerca per il progresso di un paese. Spero che questo nuovo governo fatto di professori si renda conto che la ricerca è fondamentale per il progresso di un paese, e quindi bisogna trovare modo di mantenere i nostri giovani neodottori di ricerca in Italia, non di lasciarli fuggire all'estero, perché sennò l'Italia diventa un paese in via di sottosviluppo. Qual è stata la cosa che l'ha emozionata di più fino adesso, tra le sue scoperte? No, guardi, emozioni sono parole grosse, non è facile dirlo. Tutte le volte si riesce a spiegare un fenomeno, fa piacere, diciamo, ecco. Il tema della divulgazione scientifica, caro a Marguerite Hack, è anche al centro dell'iniziativa I Grandi della Scienza, che troverete in edicola assieme al Sole 24 Ore a partire dal 24 febbraio ogni settimana. Il primo volume è dedicato ad Albert Einstein. La prima volta termina qui. Ci ritroviamo domenica prossima alle 13:05. Potete scaricare il podcast della nostra pagina radio24.it o scriverci a laprimavolta@radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. La prima volta torna domenica prossima alle 13:30. Per riascoltare le puntate in podcast, www.radio24.it.